San Marino, San Marino, perché San Vicente c'è la nostra spiaggia, ci ha visto tutta la vita. Silenzio, se devi guardare, basta.